9 in punto. Buongiorno cari ascoltatori, dunque da Simone Spezia, come si diceva nell'anteprima, c'è qualcuno che sostiene che la vicenda MPS Monte dei Paschi sia una sorta di cortina fumogena per far dimenticare quelli che sono i veri problemi del paese. Beh, insomma, a me non sembra che sia così, posto che i problemi del paese non ce li dimentichiamo, a partire da quelli delle piccole e medie imprese che, come avete sentito nel giornale radio, oggi organizzano con Rete Imprese Italia una giornata di mobilitazione. Posto che quei problemi non ce li scordiamo, in realtà probabilmente la vicenda del Monte dei Paschi di Siena è un coltello affondato in una piaga italiana. Sono i rapporti, per esempio, tra la finanza e la politica, il tema dei controlli sulla finanza, i problemi naturalmente del nostro mondo bancario, una serie di intrecci di affari e di interessi. Nella fattispecie hanno riguardato in particolare un singolo territorio, ma naturalmente non solo quello, perché si parla della terza banca del paese, una banca con 6 milioni di clienti. Questioni che riguardano non solamente i derivati, che sono, se vogliamo, l'aspetto più evidente e più chiaro, più nitido di questa vicenda, è quello che sta uscendo adesso fondamentalmente, ma che affondano le radici più lontano, ed è secondo me questo poi il nodo, ossia quella famosa acquisizione di Antonveneta pagata a carissimo prezzo con una plusvalenza, chiamiamola così, che secondo i magistrati avrebbe girato come una sorta di tangente. Questo sarà approfondito naturalmente dai magistrati, però c'è da ragionare naturalmente su questo. Allora io saluto innanzitutto Angelo De Mattia, buongiorno. Buongiorno a voi. Ex direttore centrale della Banca d'Italia, in un remoto passato fu anche responsabile del credito del Partito Comunista, e quindi insomma è una figura che in particolare proprio in questa vicenda di MPS ci interessa particolarmente e ci aiuterà a capire, anche appunto da ex direttore centrale della Banca d'Italia, su come sono stati i controlli. Saluto anche Gianfranco Polillo, sottosegretario all'economia, buongiorno. Buongiorno. E poi. Oscar Giannino, bentornato. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, bentornato ai tuoi microfoni, diciamo così, insomma. No. Beh, i microfoni sono di chi li conduce, tuoi, Simone, e degli ascoltatori, come no. Allora, Oscar, partirei proprio con te, insomma, perché qua ci sono, secondo me, una serie di responsabilità da identificare. I controlli della Banca d'Italia sicuramente, i controlli dello stesso Tesoro, e poi là verremo anche a Polillo, perché chi ha autorizzato la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, sostanzialmente che è sostanzialmente a controllo politico all'epoca, a fare un aumento di capitale da 3 miliardi di euro per consentire l'operazione di acquisto di Antonveneta. Oscar. Beh sì, a me pare che questa vicenda, voglio dire, purtroppo abbia una serie di cerchi concentrici di responsabilità, quindi è un punto su cui riflettere molto a fondo, perché riguarda ovviamente delle banche italiane, quella in cui la presa della Fondazione Montepaschi era più elevata, stava al 56% fino a un po' di tempo fa, e quindi è più evidente che altrove il ruolo che la politica, visto che il sindaco e il presidente della provincia di Siena, a decidere per decenni l'amministratore delegato e il direttore generale. Ricordo a tutti che il direttore generale della banca, questo è il primo che c'è, l'amministratore delegato Viola, che insieme a Profumo sta cooperando con le autorità di vigilanza, tutti gli altri erano espressione interna col board della CGIL, come del resto i sindaci, tranne Cecuzzi, erano tutti espressioni della vita interna e delle carriere del Monte Paschi. Quindi è più evidente che cosa? Che quando gli amministratori di una banca sono espressione direttamente e puramente della politica, ritengono di poter comprare banche a prezzo spericolato, Banca 121, Antonveneta, di poterne comprare dicendo che costano meno delle follie che poi hanno dichiarato di pagarle, perché questo è il più dell'indagine che riguarda i fatti di 5 anni fa su l'acquisizione di Anton Veneta, di poter magari anche per assecondare il Santander che se ne voleva liberare, mettere tangentoni sopra, perché questa è anche un'altra ipotesi dell'indagine, e più da quel momento in poi nascondere ai regolatori, diciamo così, e anche al consiglio d'amministrazione e ai sindaci e ai revisori come fare per traslare in avanti perdite di miliardi, perché sommate siamo a miliardi. Questo è vero da una parte, dall'altra però è anche evidente che il comportamento di amministratori indotti, scelti dalla politica, indotti ad assecondare chi li ha scelti, che cosa produce? Produce il fatto che per tenersi buono il tesoro, e cioè chi vigila sulla fondazione, inizia a comprare titoli pubblici fino a 2,5 volte il capitale, e pare che abbia funzionato, per così dire, perché come correttamente richiami tu, siccome la vigilanza sulla fondazione è del tesoro, quell'aumento di capitale spericolato, fatto apposta per tenere alta la quota di controllo della fondazione, lo autorizza il tesoro quando però non c'è un esponente del PD, c'è un esponente che si chiama Giulio Tremonti. Dopodiché vogliamo aggiungere il sistema bancario che sceglie nel... E il direttore generale, Oscar, aggiungo, il direttore generale è l'attuale ministro dell'economia, domani esatto, tra l'altro chiamato a rispondere in Parlamento. Esatto. Dopodiché vogliamo aggiungere che il sistema bancario nel suo complesso sceglie nel 2010 e conferma pochi mesi fa nel 2012 come presidente, il presidente appunto della banca che da anni è notoriamente la più debole nel vertice delle banche italiane, e lo fa evidentemente mandando un messaggio che veicola ai regolatori il significato di dire ovviamente mettiamo lui, non rompete le scatole a lui, non rompete le scatole a noi. E infatti Unicredit è l'unico vero aumento di capitale sul mercato che riguarda dal 2009 a oggi, tranne MPS, le banche italiane di prima fascia, perché dopo Unicredit tutti prendono paura e i regolatori iniziano a pensare ad altre modalità per non fare diluire le fondazioni. Ecco, voglio dire, il complesso di queste cose, che poi secondo me getta un'ombra su tutto il ruolo delle fondazioni bancarie, che con tutto rispetto per Guzzetti sono espressione della politica e continuano a controllare le grandi banche private quotate italiane, ci deve insegnare che occorrono modalità per levare, secondo me, la fondazione dal ruolo improprio che ha esercitato a Siena, ma anche per far dismettere il controllo delle banche italiane alle fondazioni in quanto tale, che in questi anni, avendo scelto gli amministratori, inducendoli non alla sana e prudente gestione, hanno anche ottenuto l'effetto, paradossalmente, di avere banche che non capitalizzate come dovevano per non farli diluire, hanno avuto meno risorse per le famiglie e per le imprese, e naturalmente hanno ormai conti economici che, non avendo dato più neanche i dividendi alle fondazioni, neanche le fondazioni sono più in condizioni di poter erogare quello che erogavano sul territorio, che è la loro vera prima vocazione. Quindi dal mio punto di vista è un quadro enormemente politico su cui riflettere. Chiarissimo. Polillo, Gianfranco Polillo, sottosegretario all'economia, la vorrei innanzitutto su questo punto generale fatto da Oscar Giannino. Tra l'altro oggi anche il famoso Financial Times, la diciamo così perché insomma sta intervenendo parecchio sulle vicende italiane, insomma siamo al centro dell'attenzione, con in un editoriale torna sulla vicenda e ragiona proprio di questo, insomma dice queste fondazioni bancarie sono un animale strano, dice in sostanza dovrebbero uscire fuori dal controllo del capitale delle banche. Lavorai quindi sul punto generale e poi su questo forse ho messo controllo del tesoro, o insomma vogliamo chiamarlo scambio di favori, come lo vogliamo chiamare? Ma sul primo aspetto vorrei ricordare che le fondazioni sono state un momento di passaggio, perché sono state l'elemento attraverso il quale si è fatta la privatizzazione del sistema bancario italiano. Dicevo, è un po' una vicenda strana, come fu la vicenda strana dell'IRI negli anni 30, perché come ricorderete negli anni 30 l'IRI doveva essere un momento in cui lo Stato interveniva nella crisi industriale di quegli anni, acquisiva le partecipazioni statali per poi le avrebbe dovuto rivenderle sul mercato, rimetterle sul mercato, cosa che poi non si realizzò mai per la natura asfittica del mercato dei capitali in Italia. Credo che questa operazione invece in modo trasparente è stata fatta in altri paesi, quando c'è stata la grande crisi bancaria svedese, per esempio, che sono state acquisite banche e poi rivendute. Questo, come spesso è capitato nella storia italiana, di buona intenzione lastricata la via dell'inferno, per cui questa soluzione transitoria che fu escogitata da Amato durante la crisi del 92, poi è diventata un elemento permanente. E le fondazioni sono diventate un po', come dire, l'elemento in cui una vecchia classe dirigente italiana si è trincerata lì dentro, no? Perché sono espressioni tutto delle autonomie locali e ancora oggi in qualche modo mantengono il pacchetto di controllo delle principali banche italiane, che da un lato è positivo perché sono state evitate che le banche diventassero preda dei grandi equilibri internazionali con tutte le conseguenze che ne potevano derivare, vedi Lehman Brothers, però non c'è dubbio che oggi tutta questa struttura vada un po' ripensata. Naturalmente il problema è che è sempre lo stesso, che in Italia capitali di rischio disponibili ad affrontare problemi di questo genere non ce ne sono. Questo è l'aspetto. Voi avete citato Tremonti, io vorrei ricordare che nel 2001 Tremonti cercò per primo di arrivare a ridimensionare il potere delle fondazioni bancarie, fu una battaglia molto cruenta che Tremonti perse e poi Tremonti in qualche modo fu costretto a ridimensionare le proprie ambizioni. Per quanto riguarda invece la vicenda specifica a cui accennava Oscar, che saluto, come saluto Angelo Mattia, ci conosciamo ormai da moltissimi anni con tutte e due, quindi giochiamo in casa. Oscar ha ragione, però in quel momento che cosa c'era? C'era in Italia il tentativo di risico bancario, come ricorderete, no? Allora, su Anton Veneta aveva posto gli occhi a BN Amro, che aveva un progetto, l'ha ricordato Mucchetti recentemente nell'intervista a Geronzi, che voleva acquistare sia Anton Veneta sia Capitalia, fonderle insieme e costituire un grande gruppo bancario controllato dagli olandesi in Italia. Questo progetto vide l'opposizione del governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio, che consentì soltanto una partecipazione massima fino al 15%. Poi l'operazione non si fece più perché, come ricorderete, Capitalia andò a finire a Unicredit e nel periodo in cui Intesa acquisiva San Paolo e quindi diventano questi due grandi gruppi italiani, ci fu tutta la polemica sull'italianità delle banche in quegli anni, che fu un tentativo di preservare il sistema bancario italiano, che ha delle proprie peculiarità che ha mantenuto e sono divenute evidenti nel corso della crisi, quest'ultima crisi dal 2008, se le banche italiane non parlano inglese, come è stato detto, però hanno conservato una solidità patrimoniale maggiore di altri gruppi stranieri, questo si deve anche alla prudenza di quella politica, che naturalmente è una politica che aveva degli effetti collaterali, e uno degli effetti collaterali è stata appunto la vicenda Anton Veneta, che oggi sta determinando una polpetta avvelenata, gli effetti su MPS. Sì, perché poi è quello, e ci ritorniamo, come già si diceva in apertura, il vero tema è quello, cioè i problemi patrimoniali del Monte dei Paschi, e probabilmente questo iniziare a giocare con i derivati nascono esattamente dai problemi finanziari nati con l'acquisto di Anton Veneta, che molti giudicano appunto strapagata in quel momento. Prima di andare agli ascoltatori all'800240024, vi ricordo anche l'hashtag su Twitter, se volete 9 in punto col 9 scritto a lettere, voglio sentire Angelo De Mattia sul ruolo della Banca d'Italia da questo lato e anche una battuta sui rapporti del Partito Democratico e insomma delle sigle che lo hanno preceduto, per così dire, con il Monte dei Paschi, perché vedo una certa corsa a negare questi rapporti, De Mattia. No, allora, per quanto riguarda la Banca d'Italia, io devo ricordare che la vicenda che stiamo esaminando, che è sulle prime pagine di tutti i giornali, trae le sue origini sì dall'acquisto dell'Anton Veneta, ma prima ancora trae le sue origini dalla mancata operazione di aggregazione Monte Paschi BNL proposta dal Monte dei Paschi all'inizio degli anni 2000 e che non si realizzò per la pervicacia della fondazione del Monte dei Paschi di conservare in quell'aggregazione la maggioranza assoluta. La Banca d'Italia aveva fatto presente in quella circostanza che per le ragioni della sana e prudente gestione, della stabilità, della prospettiva di questa aggregazione in un contesto nel quale si aprivano i mercati e la concorrenza diventava fondamentale, era opportuno nel clima di privatizzazione che era stato lanciato a partire dal 1993 che la fondazione scendesse significativamente al di sotto della maggioranza assoluta. Questo non si ritenne di fare, anzi si immaginò che la colpa di questa francata aggregazione fosse della Banca d'Italia che cattiva non l'aveva voluta consentire. Immaginiamo che cosa sarebbe successo oggi se fosse stata consentita quell'operazione in presenza di ciò che è avvenuto, ma anche in presenza di una banca di molto più grandi dimensioni. Mi scusi De Mattia, la interrompo solo per questo. Le risulta che all'epoca, perché su questo anche si è molto discusso sulla vicenda BNL, le risulta che all'epoca ci fosse una parte del Partito Democratico che all'epoca erano IDS forse, se non erro, perché insomma ci sono stati un po' di cambi. Siamo all'inizio degli anni 2000. Esatto. Le risulta che ci fosse una parte del partito che spingeva per questa operazione e poi invece ci fu il partito locale sostanzialmente che con il suo braccio operativo all'interno del Monte dei Paschi, ossia la fondazione, negò questa possibilità. No, questo in modo specifico non mi risulta, però voglio dire che quando si chiama in ballo la politica e i rapporti deteriori tra politica, fondazione e banca, questa politica va vista in senso lato perché non è solo partito o un partito, ma è anche pubblico e privato, associazionismo sociale ed associazionismo anche religioso, cioè è una visione distorta della senesità che combinata oppure causa ed effetto del malfunzionamento del rapporto tra fondazioni e banca ha provocato la situazione in cui noi ci troviamo. Oscar Giannino ha pienamente ragione quando chiama in ballo più di recente la questione dell'indebitamento della fondazione per partecipare all'aumento di capitale. Io questa cosa l'ho segnalata per tempo con argomentazioni sui giornali sui quali ho avuto la possibilità di scrivere. È paradossale che una fondazione si indebiti con il sistema bancario, con alcune banche naturalmente, per partecipare al capitale di un'altra banca, una fondazione che ha scopi istituzionali ben precisi e che certamente non annovera tra questi scopi un'operazione di questo tipo. Ma c'è di più, questa operazione è avvenuta perdurante la vigilanza del Ministero dell'Economia. Quello stesso Ministero dell'Economia, i cui titolari di un tempo, a cominciare dal ministro di allora Tremonti, evocano il carattere deteriore dei rapporti tra politica ed economia, politica e banche. Però io voglio ricordare che quella normativa a cui ha fatto puntualmente riferimento Gianfranco Pulillo, che conosce benissimo la storia recente e passata del sistema bancario, quella normativa, pensate un po', prevedeva che gli enti territoriali, dunque la politica, se vogliamo usare questa formula riassuntiva, entrassero nelle fondazioni con il 75% degli organi delle fondazioni, quindi altro che riforma che voleva fare Tremonti, questa era una deforma che non a caso fu bocciata dal Consiglio di Stato prima e poi fu fulminata con una sentenza storica della Corte Costituzionale che rilevò la illegittimità profonda di questa normativa che contrastava con la natura privata di soggetto sociale, di utilità sociale delle fondazioni. Oggi noi dobbiamo pensare a quello che c'è da fare adesso, cioè la magistratura non può che fare quello che sta facendo egregiamente. È importante che sollecitamente si giunga a una conclusione e che non resti appeso questo tema che viene evocato in continuazione delle tangenti. Si parla in continuazione di tangenti, se queste ci sono state, la sanzione non potrà che essere rigorosissima e inflessibile. La banca con due esponenti di vertice di primo piano, Profumo e Viola, deve avviare, come sta facendo, una grande operazione di trasparenza, di risanamento e di rilancio. La Banca d'Italia svolge il suo compito di controllo con un monitoraggio continuo. Non rientrava nella Banca d'Italia, nelle sue attribuzioni, la valutazione del merito, del prezzo dell'acquisizione dell'Antonveneta. La banca doveva valutare la sostenibilità sotto il profilo dei coefficienti patrimoniali del prezzo, e io ritengo che questo compito sia stato adempiuto dalla banca. Le finalità dell'organo di vigilanza, è stato giustamente detto, ma l'ho scritto anch'io più volte, non sono quelle di polizia giudiziaria o della magistratura, sono finalità che mirano alla sana e prudente gestione, alla trasparenza, alla competitività, alla stabilità, e se nel corso di questa attività si imbatte la Banca d'Italia in ipotesi di reato, è ovvio che queste ipotesi di reato vengono segnalate immediatamente alla magistratura. Ma se ci sono ipotesi di reato... De Mattia, la devo interrompere perché abbiamo una breve pausa. 9 in punto. Cari ascoltatori, come avete sentito, siamo fortunati, insomma, per una radio come la nostra va bene, abbiamo abbastanza pubblicità, quindi siate estremamente compatti nei vostri interventi. Paolo, che poi è Paolo Barrai, ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno. Brevissimo, Brevissimo. Allora, nel 2008, nel 2007, il giorno dopo l'operazione Antonveneta, la stampa italiana lodò questa operazione, la stampa internazionale la distrusse. Ci sono responsabilità oggettive da parte di politica e di Banca d'Italia, che ne dica il signor De Mattia, che mi sono addormentato mentre lo ascoltavo. Non è possibile che per Fiorani e Fazio si usava un peso e per Draghi e per invece il signor Mussari se ne usi un altro. Quella operazione a quel prezzo non poteva essere sostenuta da Montepaschi, tenuto anche presente che il capo economista della banca la settimana prima dell'annuncio dell'operazione uscì con un report in cui si diceva che la crisi avrebbe colpito pesantemente l'Europa. Quindi tutti sapevano e tutti sono stati zitti e tutti sono stati o idioti o conniventi, non c'è altra possibilità, e comunque dovrebbero andare tutti a casa, compreso Mario Draghi. La sua responsabilità grazie. È oggettiva. Grazie Paolo per la brevità e per l'incisività. Oddio, le devo dire che poi non è tutto vero, sono andato a ripescare un pezzo sul Sole 24 Ore del, insomma, siamo a metà 2008, quindi a 6 mesi all'annuncio dell'operazione, nel quale si dice abbastanza brutalmente che, insomma, col senno di poi MPS ha davvero strapagato Antonveneta, e appunto 6 mesi dopo con quei soldi avrebbe quasi potuto comprarsi Commerzbank, che è 12 volte più grande di Antonveneta. Voglio sentire anche Riccardo, che ci chiama da Pistoia. Buongiorno. Sì, buongiorno. Appunto, come sono abbastanza d'accordo con l'interlocutore che ha parlato adesso, che stava per addormentarsi per l'intervento precedente, sul quale ho qualche dubbio che... Non ve la prendete con De Mattia, no. Prego, prego. Di dire, ho qualche dubbio che la gente abbia capito qualcosa nel merito della vicenda del Monte dei Paschi. Comunque la mia osservazione qual è? Deve fallire proprio oggi che ci sono le piccole e medie imprese che sono per la strada a manifestare. Deve fallire. Venderanno gli immobili, faranno quello che credano, cioè deve fallire come qualsiasi altra azienda. Io non ho capito perché quando c'è l'artigiano o il piccolo imprenditore, voglio dire, se le cose vanno male, questo fallisce, questo è un disgraziato. E non ho capito perché quando si parla di grossi numeri, gli enti, le fondazioni, le banche, ci debba essere sempre il paracadute, che poi il paracadute che ho pagato io fino adesso. Cioè, cioè questo, chiarissimo, secondo me istiga gli italiani, cioè è un modo per istigare gli italiani anche a delinquere in qualche modo, perché che vuol dire? Che se io faccio la botta grossa, qualcuno mi ripara, qualcuno mi riprende, se la faccio piccolina sono soltanto un disgraziato. Cioè, c'è qualcosa, Riccardo, che non va. Riccardo, la sua posizione è chiarissima, non male la battuta di Mario Salerno che arriva via Twitter: ci spaccavamo la testa sull'internazionalizzazione, la terza banca del paese aveva il problema della senesità. Non male, non male. Allora, Oscar Giannino, un po' di sollecitazioni che sono arrivate dagli ascoltatori, in particolare sul ruolo della Banca d'Italia in questa vicenda, così rispondiamo anche a De Mattia. Tra l'altro, appunto, sempre il solito FT nel suo editoriale di oggi scrive: insomma, la Banca d'Italia sapeva di questi, di almeno due di questi derivati almeno dal 2010. Poi c'è la questione Antonveneta e c'è anche questa, naturalmente. Avrebbe dovuto dare una pubblica disclosure di questa di questi fatti. Oscar. Beh, certo, l'emergere sulla stampa della cognizione da parte della banca, la Banca d'Italia manda due ispezioni pesantissime nel 2009 e 2010 all'istituto, e l'emergere da parte di colleghi che fanno il loro mestiere di giornalismo di indagine della cognizione di quegli strumenti di copertura da parte della Banca d'Italia è parte delle cose che aspettano una risposta. Io mi limito a dire che dall'acquisizione di Banca 121, quindi risaliamo indietro negli anni, no? Banca del Salento, un mucchio di colleghi, io per primo, scrivemmo che anche quell'operazione nasceva nell'ambito di evidenti collegamenti politici, in quel caso dal mondo d'Alemiano Pugliese che aveva premuto. Ci occupammo negli anni successivi, e anche Il Sole innumerevoli volte, di prodotti finanziari sui quali dopo quell'acquisizione MPS raggiungeva il record di perdite per i risparmiatori che li sottoscrivevano, arrivavamo addirittura a perdite totale dei risparmi investiti su alcuni di quei prodotti che erano o di previdenza integrativa ed erano complessissimi e si rivelarono fonti di perdite assolute. Quindi è una storia lunga quella di una gestione da parte di MPS, ripeto, con i vertici operativi che rispondevano più al sindaco di turno per avere poi la conferma o meno a seconda del sindaco successivo e delle correnti del PD rispetto a una sana e prudente gestione. Quello che mi preme dire in aggiunta a quello che abbiamo detto fino a questo momento è fare una riflessione su cosa fare oggi. Domanda: quando in realtà l'operatività a oggi da due anni, cioè da quando ottiene Tremonti Bond, da quando poi la fondazione ottiene da Tremonti il diritto di rimanere ben sopra dove avrebbe potuto stare indebitandosi, perdendo negli ultimi due esercizi praticamente mezzo miliardo. Allora, di fronte a questo, visto che l'operatività di questo ultimo anno della banca dipende in realtà dal denaro pubblico, prestatoli, non regalatoli, ma ad alto tasso di interesse, la mia domanda è: quando una banca è in queste condizioni, il regolatore e lo Stato, che in questo caso interviene con il prestito, deve badare alla solidità patrimoniale di questa banca, al netto delle indagini che ci diranno poi che cosa diavolo è successo, oppure ha senso farla indebitare? Ecco, la mia opinione è che a questo punto bisogna essere realisti. Non ha senso farla indebitare ulteriormente, ha senso per la parte pubblica che regola e per lo Stato che deve guardare alla solidità del sistema, dire no, io a questo punto ti devo ripatrimonializzare, perché è vero che da una parte prestandogli soldi al 9% il tasso di interesse, come si fa con i Tremonti Monti Bonds, la politica dice non ti faccio un regalo, ma è anche vero che dal punto di vista della solidità del sistema le stiamo facendo ulteriormente indebitare. Allora io dico, prendiamone atto. Per questo dico, io non sono un nazionalizzatore, ma lì ci vuole un intervento che per risanare nazionalizzi, ma semplicemente perché già da tempo l'operatività di quella banca è attiva solo grazie al denaro pubblico, e però prendendo l'impegno che entro due anni noi la restituiamo pulita al mercato riprivatizzandola, perché ripeto, su questo Alessandro Penati, che ha scritto ieri in totale collimanza con quello che abbiamo sostenuto anche all'assemblea della banca, fa notare un punto sul quale vedo molto disattenti. Noi siamo giornalisti economici, ci tocca dire che farla indebitare oggi per la parte pubblica e per lo Stato è un non senso. Quindi la mia opinione è che in questo caso la nazionalizzazione a tempo in cambio della pulizia e della riprivatizzazione entro 2 anni serve a evitare che altrimenti si eterni ancora il ruolo improprio della fondazione, uno. Due, è il fatto poi che da questo non si derivi una conclusione, una conseguenza per l'intero ruolo delle fondazioni bancarie. Io faccio notare, io sono torinese, il presidente della compagnia di San Paolo oggi è l'ex sindaco Chiapparino, persona per benissimo, per carità, ma è un politico. Guzzetti, che è da sempre il capo dell'ACRI, cioè di tutte le fondazioni, e che è in carico, in buona sostanza, è il grande tronco su cui si costruisce poi il controllo di Banca Intesa, e quindi il primo azionista del Corriere, azionista in Telecom, in generale, e così via. Beh, è un ex uomo politico, quindi da questo punto di vista questa anomalia bisogna che noi ne prendiamo atto, la sciogliamo, è una cosa bipartisan, non riguarda gli uni contro gli altri, riguarda tutta la politica nelle banche. Chiarissimo, e gli effetti sono quelli di cui stiamo parlando. Chiarissimo, chiarissimo Oscar, devo dire poi che c'è tra l'altro il rischio che comunque alla fine MPS venga nazionalizzata, perché il prestito lo possono restituire anche in azioni, se non erro. Polillo, secondo lei poteva essere un'opzione questa, invece di andare con appunto con i Monti Bond o i Tremonti Bond prima? Ma io sono abbastanza d'accordo con le cose che diceva Oscar. Aggiungo solo un elemento, che noi ancora oggi non sappiamo esattamente quant'è la solidità patrimoniale di MPS. Perché il passaggio dal semplice prestito alla nazionalizzazione deve scontare appunto una valutazione di bilancio che ancora non siamo in grado di fare, perché come sapete alcune carte sono state occultate, non si capisce quante sono le perdite non contabilizzate, quindi dobbiamo fare prima un'opera di pulizia all'interno della banca, vedere effettivamente quant'è il patrimonio effettivo della banca stessa. Sulla base di questo poi si può ragionare. Se il patrimonio è del tutto insufficiente, allora probabilmente anche un'ipotesi di nazionalizzazione alla svedese, come dicevo prima, cioè quando c'è stato il primo grande crisi bancaria in Svezia, lo Stato intervenne nel capitale delle aziende, risanò le aziende e poi le rimise sul mercato. Questa può essere un'opzione, però la premessa di tutto ciò è capire esattamente come stanno le cose all'interno di MPS, perché i bilanci sono vaghi, perché ci sono documenti che ancora non sono stati visionati, anche le accuse della Banca d'Italia sono anche un po' ingenerose, perché se la Banca d'Italia si nascondono dei documenti anche durante le visite ispettive, diventa poi difficile poter fare avere una valutazione realistica di quello che è la situazione patrimoniale della banca. Quindi questa è la premessa, fare chiarezza. Credo che Profumo la voglia fare, e nel frattempo recidere però questi legami che ci sono stati con il mondo della politica, che sono state una delle caratteristiche essenziali di MPS, perché vede, ci sono delle stranezze. Prima Oscar diceva giustamente che Chiapparino da politica è diventato oggi presidente della fondazione che controlla le banche a Torino, ma ci fu un'operazione inversa negli anni passati, perché quando il sindaco di Siena, che era Piccini, voleva diventare da sindaco presidente della fondazione, Vincenzo Visco, che era ministro del tesoro in quegli anni, fece un atto di indirizzo che vietò ai politici di diventare presidente della fondazione, che poi è stato un atto di indirizzo de personam, perché Piccini non divenne, e poi ottenne come risultato, lui era un ex dipendente di MPS, andò a dirigere MPS France, e divenne prima Spaventa presidente di MPS, che fu un elemento di garanzia nella lotta interna che c'era all'interno del DS di allora, perché c'era la segreteria che voleva in qualche modo condizionare il futuro della banca, e c'era invece Giuliano Amato e Bassanini e Luigi Berlinguer che sostenevano invece la candidatura Piccini. Quindi se non si rompono questi legami definitivamente con la politica, allora diventa tutto difficile. Polillo, chiarissimo, abbiamo una pausa, poi voglio sentire altri ascoltatori. 9 in punto. Raccomando, massima brevità. Paolo ci chiama da Siena, buongiorno. Buongiorno. Prego. La banca dal niente è diventata la terza più grande banca italiana, perché chi la comandava aveva il cosiddetto amor patrio. Questo non è più successo da circa, non voglio dire gli anni, ma diciamo negli ultimi 20 anni le cose sono cambiate. Poi purtroppo c'è stata la privatizzazione, il Monte dei Paschi è entrato in mano a persone che, pur avendo idee politiche che io non condivido, ma questo non ha nessuna importanza, anche quelle persone delle quali io non condivido le idee hanno fatto il bene della banca. Tanto è vero che, ripeto, questa banca, nata in una città di 50.000 abitanti, è diventata la banca più patrimonializzata d'Italia. Quando era ancora un istituto di credito diritto pubblico, era la banca che aveva il maggior patrimonio immobiliare. Dunque ci sarà un motivo, vuol dire che le persone che comandavano erano amanti di questa città, erano senesi, tant'è vero che dovevano risiedere a Siena, e chi veniva a Siena e veniva da fuori doveva come minimo venire a Siena, starci alcuni anni e poi poteva aspirare a diventare provveditore generale o presidente della banca. Questo non è più successo, mancanza di etica. Questa, e poi un'altra cosa, l'Anton Veneta, la conseguenza del 121, la banca 121, chi ha voluto che il Monte dei Paschi comprasse e poi per assurdo è stata comprata dalla 121? Vorrei che Oscar Giannino o altri me lo dicessero. Chi è quel partito che ha voluto che la banca Monte dei Paschi mi sembra Paolo che l'abbia detto abbastanza chiaramente Oscar Giannino poco fa, facendo riferimento a D'Alema, l'ala d'Alemiana pugliese del partito. Sempre da Siena, Silvana, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire che sia Polillo che Oscar Giannino hanno detto cose giustissime. Io, da cittadina di Siena, dico che la banca e il partito è la stessa cosa, nel senso che i sindaci di Siena, finita la carriera politica, diventavano dipendenti del Monte, così come dipendenti del Monte sono diventati poi sindaci, vedi il sindaco di Montisciano. Questo non solo a Siena, ma tutta la provincia. E un'altra cosa, praticamente questa politica ha distrutto la nostra città, perché la banca non ha dato i fondi a chi lo meritava, alle aziende che avevano voglia di fare, che avevano le capacità, ma ha dato i soldi semplicemente agli amici, chi aveva la testa. Che è il grande problema di quando metti la politica a gestire le cose. Purtroppo chiudiamo con gli ascoltatori, con Stefano che ci chiama da Roma. Buongiorno, breve anche lei per favore. Buongiorno, brevissimo. Io volevo soltanto dire che in Italia da molto tempo, quando si invoca la nazionalizzazione o il nazionalismo in generale, vedi all'Italia va de retro Air France, che così con il Monte dei Paschi, va de retro ABN AMRO, si fa solo perché se interviene una gestione straniera sono troppo onesti per il nostro status e quindi i nostri affaristi e i nostri politici non possono più fare i loro sporchi affari. Grazie. Grazie Stefano, andiamo verso la chiusura con Angelo De Mattia, che secondo me deve rispondere a un po' di sollecitazioni arrivate negli ultimi minuti, a partire forse addirittura da questa di Stefano da Roma, che dice insomma questa storia dell'italianità, della quale tanto si è discusso e della quale stiamo parlando anche in merito al momento delle grandi fusioni bancarie, io la dico meno brutale dell'ascoltatore, ma alla fine magari insomma quelli che arrivano dall'estero le gestiscono pure meglio le cose, soprattutto in casi come questi. Ma risponderò a questa sollecitazione dopo aver risposto ai due dormienti che probabilmente hanno prolungato il loro sonno mentale nel fare l'osservazione che hanno fatto. Vale a dire, si vuole che la Banca d'Italia, nei casi in cui vi sono delle aggregazioni o altri rapporti tra banche, entri nel prezzo e lo fissi lei addirittura il prezzo? Questo si vuole? Allora deve essere chiaro a quelli che conoscono la materia, ma anche a quelli che non la conoscono, soprattutto in una radio, diciamo nell'ambito della Confindustria, deve essere chiaro che se si imbocca questa strada noi torniamo indietro di 35 anni. bene, cioè torniamo al dirigismo bancario, quando cioè c'era quella che si chiamava l'amministrativizzazione del credito. Il credito veniva fissato dalle leggi, veniva fissato dai regolamenti, non c'era alcuna attività imprenditoriale da parte del banchiere, e i risultati fallimentari dell'azione dei banchieri ricadevano sul bilancio pubblico, si veda la vicenda Sindona, si veda la vicenda Ambrosiano e così via. Se non si vuole questo, allora bisogna distinguere le responsabilità. C'è una responsabilità dei banchieri che contrattano e fissano il prezzo, e se questo prezzo è un prezzo esorbitante, o si cade in una sanzione del mercato, è il mercato che li punirà, oppure se vi sono fatti illeciti, come si profila adesso, ma dobbiamo vedere la conclusione, sarà la magistratura a sanzionarli. La Banca d'Italia può prevenire i fatti illeciti, ma perché vi siete mai chiesti che l'esistenza della magistratura, della polizia giudiziaria, delle polizie, delle regole, dei codici italiani e internazionali hanno prevenuto, prevengono i reati, prevengono gli omicidi, prevengono le truffe, le appropriazioni indebite e così via? Ma non si vive in questo caso nel mondo del sonno, ma si vive in un altro mondo addirittura, se si pensa a una cosa del genere. E naturalmente, pensando in maniera molto limitata e ristretta, non si fa che compiere il gioco di chi alla fine poi non vuole modificare nulla. Qui si tratta di innovare. Io sono contrario all'ipotesi di una gestione straordinaria. Comunque sulla gestione straordinaria è la Banca d'Italia che valuta se ricorrono i presupposti e poi formula la proposta al Ministero dell'Economia. È contrario anche nella situazione attuale, in presenza dei dati che si conoscono, a una nazionalizzazione, e in questo ho delle osservazioni vicine a quelle dell'ultimo radioascoltatore che ha telefonato. D'altro canto, evocare queste due possibilità, commissariamento e nazionalizzazione, di per sé si determina un effetto allarme sia a livello aziendale sia a livello sistemico. Finora questo non c'è stato. La Banca d'Italia ha rassicurato sulla solidità e stabilità almeno della banca. La stessa cosa hanno detto presidente e amministratore delegato. Si tratta di evitare di essere masochisti a questo punto. Se De Mattia, la devo far chiudere, perché se no ci tolgono la linea. Qua succede così. Grazie Angelo De Mattia, Gianfranco Polillo, Oscar Giannino, grazie Franco Piantanide in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, Rosa e Sabrina al centralino. Grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani. Radio 24, la passione si sente.